GR Europa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con GR Europa. Gli USA non hanno dato i chiarimenti chiesti dall'Unione Europea il 10 giugno dopo lo scoppio del Datagate. E ieri Vivian Reding, responsabile per la giustizia e vicepresidente dell'esecutivo UE, ha inviato una lettera di sollecito. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Salvatore Iacolino, vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo. Abbiamo ascoltato intanto la signora commissario Reding riguardo di una questione che ha prodotto non poche perplessità e sulla quale ovviamente abbiamo interrogato la Reding, che ci ha riferito di una nota indirizzata al ministro Holder statunitense nei giorni scorsi, ad un incontro a Dublino che pure vi è stato fra i due, questo allarme che ha suscitato una acquisizione di informazioni, come dire, molto selezionate che hanno sostanzialmente determinato, come dire, un'intrusione a gamba tesa nella vita privata di milioni e milioni di cittadini europei. Abbiamo chiesto altresì che la risposta formale alla nota della Reding, quella cioè del ministro di giustizia Holder, deve formare oggetto di un'attenta e comune riflessione per una risposta concreta ad un tema che è sensibile e che ha veramente determinato una serie di riflessioni e una serie di critiche anche nei confronti della nostra commissario. L'Ungheria deve rispettare i valori fondamentali dell'Unione Europea e la Commissione Europea si deve attivare affinché non ci sia un doppio standard nell'Unione, altrimenti il Parlamento Europeo deve attivare la procedura che fa scattare le sanzioni. È il senso di un rapporto approvato dalla Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo e che andrà al voto nella plenaria di luglio a Strasburgo. E alla plenaria di luglio si discuterà anche del caso Marine Le Pen. La Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha confermato il parere favorevole all'abolizione dell'immunità parlamentare per la presidente del Front National francese per dichiarazioni di stampo razzista fatte nel dicembre 2010. Ultimo anno di lavori per l'Europarlamento prima delle elezioni che si terranno nel maggio del 2014. Fra i pacchetti legislativi che attendono di essere approvati sono incluse misure fondamentali per la ripresa dell'economia italiana, come spiega al microfono di Daniela Brunzo il capo della delegazione italiana del PDL-PPE a Bruxelles, Giovanni Lavia. In questo momento stiamo cominciando a chiudere tutti i pacchetti legislativi che sono conseguenti al quadro finanziario multiannuale, cioè al bilancio dell'Europa 2014-2020. Credo che un'altra risposta importante la si possa avere attraverso il pacchetto giovani, per il quale si è deciso di concentrare gli interventi nei primi due anni delle prospettive finanziarie, il 2014 e il 2015. Quindi forte concentrazione delle risorse, supporto ai giovani per l'inserimento lavorativo e ovviamente dall'altro lato è anche un supporto alle imprese che potranno utilizzare manodopera in una fase di avviamento senza doverne sopportare integralmente i costi. È tutto per questo GR Europa, ci ritroviamo domani alla stessa ora. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.